Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Buona domenica da Maria Spezia e Rita Micoli. In questa breve edizione del giornale radio, in apertura la festa del tricolore a Pordenone, poi le celebrazioni del Natale ortodosso a Trieste. E ancora andremo sulle piste da sci dopo il maltempo e il lavoro della notte sul manto nevoso fresco. Quindi il Pignarul di Tarcento, da dove sono arrivati buoni auspici per l'anno appena iniziato, e in chiusura lo sport con calcio e basket. Una lunghissima bandiera italiana di 85 metri sfila per le vie di Pordenone, celebrata questa mattina la giornata del tricolore. La fanfara dei bersaglieri di San Giorgio di Nogaro davanti, dietro le autorità, e il bandierone tricolore lungo 85 metri, il protagonista della giornata. Si celebra la prima adozione del vessillo nazionale simile a quello che conosciamo oggi da parte della Repubblica Cisbadana a Reggio Emilia. Era il 7 gennaio 1797, una ricorrenza che Pordenone ha deciso per la terza volta di onorare con una manifestazione che ha coinvolto la cittadinanza. Un'attenzione particolare ai bambini e ragazzi delle scuole a cui è stato proposto di partecipare con un elaborato sulla figura di Enrico Toti, bersagliere romano che morì durante la sesta battaglia dell'Isonzo in circostanze che la pubblicistica dell'epoca definì eroiche. Il bandierone è sfilato per le vie della città prima di arrivare in piazza 20 settembre, circondato dalle casette del mercatino di Natale. Sul palco anche il ministro per i rapporti col Parlamento Luca Ciriani, che ha fatto riferimento ai diritti e doveri che derivano dall'appartenenza alla patria e ha elogiato l'opera di chi, come l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, ha rimesso al centro il senso di attaccamento al paese. Ho voluto ricordare che la storia italiana è stata una storia anche drammatica, di grandi divisioni, ma appunto, anche citando anche Ciampi, dobbiamo sentire tutti l'obbligo di sentirci innanzitutto italiani all'ombra del tricolore. Questa è la giornata di tutti gli italiani, d'orgoglio nazionale che appartiene a tutti, non un singolo partito. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La comunità religiosa serbo-ortodossa di Trieste celebra oggi il Natale, la solenne liturgia di questa mattina nel Tempio di San Spiridione Taumaturgo. È il giorno di Natale a Trieste, di nuovo. Oggi lo celebrano le comunità cristiano-ortodosse. La cerimonia solenne nella chiesa di San Spiridione Taumaturgo, il luogo di culto dei serbo-ortodossi, ne riunisce molte altre. Qui, a celebrare la nascita del bambin Gesù, ci sono anche ucraini e russi, moldavi e rumeni. 20.000 in totale i fedeli ortodossi che abitano nel capoluogo regionale. La metà sono serbi e molti sono nati proprio qui. Il vicepresidente della comunità serba di Trieste, Rade Milivojevic. Inizio eravamo, diciamo, pochi dopo quelle famose guerre balcaniche e siamo venuti, come posso dire, abbiamo partito come muratori. Adesso, con tanto tempo, ormai passati quasi 20 anni di più, sono cresciuti, molti hanno fatto scuola, molti anche venuti con patente, venute molte infermiere. Così si siamo allargati e siamo cominciati a entrare in vari settori. La funzione di Natale, celebrata dal parroco Raško Radović, cerca di unire anche popoli in guerra e nemici storici. Oggi sono solo fedeli della stessa religione. Purtroppo noi siamo un popolo che sono abituato a vivere, come posso dire, tra guerre. Il messaggio è, come si dice da nostra lingua, pace di Dio e Cristo se rodi. Auguriamo buon Natale da tutti i nostri fratelli italiani, greci, rumeni, ucraini, russi, e dobbiamo vivere in una pace, in una cosa che porta bene da tutti. Trieste, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. È stato un auspicio di pace quello emesso dal vecchio venerando dopo la levata di fumo verso est-nord-est del Pignarul Grant di Coia di Tarcento. La manifestazione si è svolta secondo tradizione, nonostante la pioggia, ha visto la partecipazione di un migliaio di persone. Sarà un anno migliore rispetto al 2023, anche a molti altri, ha vaticinato il veggente, sottolineando che, essendoci delle guerre in corso, dobbiamo darci una mano e trovare una via d'uscita. riuscita. Un giudizio positivo è stato espresso anche da Nazareno Orsini, presidente dell'ente organizzatore Pro Loco Tarcento, che ha commentato: nonostante la pioggia, che per fortuna l'accensione del fuoco sia un po' attenuata, non abbiamo voluto interrompere una tradizione che quest'anno ha segnato il 96esimo anniversario e che ancora una volta ha coinvolto persone da tutta la regione. E adesso andiamo sulle piste da sci. Questa mattina c'è stata una riunione operativa di promoturismo con i capi polo dei poli sciistici regionali per fare il punto sulla situazione dopo le forti piogge e le nevicate che hanno portato ad esempio 70 centimetri di neve a Sella Nevea all'altezza del rifugio Gilberti. I poli sono oggi aperti con le stesse piste e impianti di prima della perturbazione. Con l'arrivo del freddo saranno nuovamente azionati nei prossimi 2-3 giorni i generatori di neve programmata. Si ipotizza che proprio grazie al freddo per il prossimo fine settimana l'apertura dei tracciati sarà totale fino a mercoledì. Resta invece chiusa la funivia che sale al Prevala. Servirà infatti l'elicottero per bonificare la zona dalla neve pericolosa. 12:21 passiamo al meteo, il cielo è coperto su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 10 gradi, il vento soffia a 51 km orari da est-nord-est, dunque bora con raffiche che hanno raggiunto i 92 km orari, a Pordenone 11 gradi e mezzo, Udine 10 gradi e mezzo, Gorizia 10 gradi, in area montana Tolmezzo 4, Tarvisi 1 grado, Forni di Sopra, Piancavallo e Sappada 0 gradi, in quota sul monte Zoncolan 3 gradi e mezzo sotto lo zero, e sul monte Lussari 4 gradi e mezzo sotto lo zero, sulla costa Grado e Lignano 10. Le previsioni dell'ARPA: cielo coperto senza precipitazioni nel pomeriggio, soffierà vento moderato da nord o nord-est in pianura, sostenuto in quota sulla zona montana, bora sostenuta o anche forte a Trieste e sul Carso. La cronaca: la mobile di Pordenone ha arrestato un cittadino afghano che nella zona di Piazza Risorgimento stava cedendo 10 grammi di hashish. La questura ha intensificato i controlli in zona a seguito di diverse segnalazioni di casi di spaccio da parte dei residenti. E adesso lo sport: le due facce del basket friulano nei match dell'Epifania. Una grande Cividale ha battuto un Forlì ieri ancora capolista per 86-77. Udine invece si arresa alla Fortitudo Bologna, che resta al comando della classifica, 68-54 il risultato finale, e oggi alle 18 la Pallacanestro Trieste riceve Piacenza. Lo scalpo importante arriva quando meno te lo aspetti. Un Palagesteco sempre positivo nonostante il momento tutt'altro che esaltante trascina Cividale alla vittoria contro la capolista Forlì, che prende sotto gamba l'impegno e si trova impantanata nella partita che vuole Pillastrini, ruvida ed ai ritmi variabili. Forlì parte meglio fino al più 10 firmato dal friulano Zilli, che sa di brutti presagi. Invece con pazienza i Ducali tornano in parità con 4 punti di fila dell'esodato Cole. L'americano fa vedere al potenziale sostituto Lamb di essere in crescita e di non meritare il probabile taglio. Sotto di uno all'intervallo, Cividale torna dagli spogliatoi con la consapevolezza di poter tentare l'impresa. Dell'Agnello e Redivo suonano la carica, Marangone è importante e Miani da tre scava il primo solchetto. Gli ospiti sembrano frastornati, l'argentino ispira la fuga con 10 punti e un assist su 4 possessi consecutivi a cavallo dell'ultima pausa, e la tripla di Rota a 5 minuti dalla fine spegne l'ultimo tentativo vero di rimonta. E 86-77 la zona rossa si allontana e i playoff non sono così distanti. Cade invece male l'Apu, la squadra di Vertemati, in casa della capolista Fortitudo Bologna, non trova mai il bandolo della matassa. Imprecisi in attacco, pare timorosa e addirittura impreparata il clima del Paladozza. Caia mette la partita sul fisico, i bianconeri sono teneri, soprattutto sotto canestro, dove di 4 stavolta non se ne salva uno. Così il divario è sempre tra i 10 e i 20 punti per i padroni di casa, se si esclude una fiammata targata quasi esclusivamente Clark, che però si fonda su una zona fragile che Ogden infrange assieme a Freeman. Finale 68-54, non il miglior modo per preparare il derby di venerdì, anche se al Carnera, dove in battuta si è sempre vista un'altra Udine. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Per il calcio, nel massimo campionato, dopo il successo sul Bologna, morale alto in casa udinese, che confida in un'ulteriore risalita in classifica. Alle 15 al Friuli arriverà la Lazio. Sappiamo bene dove non vogliamo tornare e dove invece vogliamo andare, ha detto ieri l'allenatore bianconero Gabriele Cioffi. In Serie C la Triestina sarà in trasferta a Trento alle 14, rosa con molte assenze, quella su cui potrà contare l'allenatore Attilio Tesser. Poca fortuna per l'Ara della Mea nello slalom speciale di Coppa del Mondo. mondo in corso a Kranjska Gora, appena oltre il confine sloveno, su una pista quasi di casa, la tarvisiana ha inforcato nel corso della prima manche ed è quindi uscita di scena. Una prima frazione che ha fatto altre vittime illustri, a cominciare dall'americana Shiffrin e dall'altra azzurra, Marta Rossetti. Nuova delusione dunque dopo la gara non positiva in gigante del giorno prima, quando Delame aveva chiuso la prima manche al 45esimo posto, non qualificandosi dunque per la seconda prova. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi. A Casarsa della Delizia in programma il concerto dell'Epifania con Corale di Rauscedo e Corale Maniaghese, appuntamento alle 17.30 nel Duomo di San Giovanni Battista. Per Adi, 800 anni dal presepe di Greccio, l'Associazione Presepistica Italiana di Udine invita al concerto dell'orchestra Plettro San Vitese alle 18 nel Santuario della Madonna delle Grazie a Udine. Sarà il concerto cover degli ABBA l'appuntamento finale del ciclo Incanto di Natale a San Vito al Tagliamento in piazza alle 17. Ed è tutto per questa edizione domenicale del giornale radio meridiano della TGR del Friuli Venezia Giulia. In regia Carlo Morello e Andrea Fontanot, in segreteria ha collaborato Samantha Gon, da Maria Spezia e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e ancora l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.